24 mattino. Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, sms o whatsapp al 349-238-6666, chi ci, comunque anche a quelli che sono molto critici e continuano a sostenere, in particolare che io in particolare sono di parte quando parlo del Movimento 5 Stelle. In realtà ho cercato di partire da alcuni dati di fatto e comunque ribadire che il malessere che c'è in questo paese, che non mi piace chiamare antipolitica, ma il malessere che c'è in questo paese intercettato dal Movimento 5 Stelle è un dato di fatto, e che sarebbe un peccato se non si riuscisse a dargli, se il Movimento 5 Stelle non riuscisse, magari per divisioni interne, a non interpretarlo fino in fondo e a dare delle risposte, naturalmente. Ma spostiamoci sulle prime pagine dei giornali. Oggi le aperture sono quasi tutte dedicate al voto di domenica. Il Sole 24 Ore però apre su una notizia economica, poi Mauro Meazza tra una ventina di minuti ci spiegherà anche altre particolarità del Sole 24 Ore di oggi, perché ieri il Fondo Monetario Internazionale ha alzato le stime sulla crescita del nostro paese all'1,3%, aggiungendo però, questo per il 2017, aggiungendo però che nel 2018 ci potrebbe essere poi un rallentamento. Vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore un lungo articolo di Maria Luisa Colledani che ci racconta dei 30 anni dell'Erasmus. Così è nata la Generazione Europa, l'Erasmus, naturalmente il programma di scambio tra università che ha portato così tanti italiani all'estero in Europa e così tanti europei nelle nostre università. E a proposito di questo, ma poi Mauro ce lo spiegherà anche meglio, domani, mercoledì, con il Sole 24 Ore, una guida all'università con addirittura 4.800 corsi di laurea. Il Corriere della Sera, l'ite nei 5 Stelle torna al centrodestra. La fotonotizia però è dedicata a quello che è successo in Russia, perché ci sono state molte manifestazioni legate anche alle proteste per le case popolari, e sono state arrestate centinaia di persone sia a Mosca che a San Pietroburgo. L'arrestato, diciamo, più illustre è Alexei Navalny, che è un blogger, e dal suo blog è molto più che un blogger, però ha un blog, e dal suo blog è molto critico verso le politiche di Putin e Putin stesso. Protesta per le case popolari in Russia, arrestato Navalny. Il caffè, scusate, di Massimo Gramellini, si chiamava Buongiorno quando era La Stampa, e oggi il Buongiorno della Stampa è affidato a Mattia Feltri, anzi dopo lo leggeremo. È invece il caffè di Massimo Gramellini dedicato a questa terribile notizia, quasi una fotonotizia, ma in realtà è una vera e propria notizia molto negativa, arrivata da Napoli, perché abbiamo visto, probabilmente quasi molti di noi, su internet questa fotografia di una paziente ricoverata al quinto piano dell'ospedale San Paolo di Napoli, le cui braccia erano coperte di formiche. La Repubblica, Movimento 5 Stelle si spacca, Grillo, due punti, non è un flop. Il riferimento è alle prime dichiarazioni che Grillo ha affidato al blog del Movimento 5 Stelle. Vi dicevo però, anche in questo, come per il Corriere, anche la Repubblica sceglie una foto scattata a Mosca. In questo caso è una manifestante arrampicata su un palo della luce e i poliziotti che la fanno scendere, e forse anche poi è stata arrestata. In totale comunque sono stati fermati 1.700, vengono chiamati oppositori, comunque manifestanti, tra questi ricorda naturalmente anche Repubblica Alexei Navalny. La Stampa, flop al voto, il Movimento 5 Stelle prepara la svolta. E vi dicevo invece il Buongiorno di Mattia Feltri, che è dedicato a un intervento che Carlo Rovelli, fisico e potremmo dire divulgatore, perché il suo libro 7 brevi lezioni di fisica ha venduto tantissime copie in Italia e all'estero, adesso è uscito un nuovo libro e anche lui è diventato molto opinionista, possiamo dire così, e gli è scappato anche questo intervento sul Corriere della Sera. e che non riguarda assolutamente la sua, il suo campo di, il suo, il campo in cui è più esperto, cioè la fisica, ma si è esercitato sull'ISIS. E allora scrive Mattia Feltri: il professor Carlo Rovelli si chiede sul Corriere della Sera se i militanti dell'ISIS abbiano altrettanta sconsiderata generosità e passione di quanti andarono a combattere Franco durante la guerra civile spagnola. Va premesso che Rovelli, oltre a tanti meriti accademici, è autore delle 7 brevi lezioni di fisica, che si è letto con fruttuoso godimento. Abbiamo capito qualcosa di Einstein: lo spazio è un gigantesco mollusco flessibile. Lo spazio. La guerra con l'ISIS no, perché Rovelli, maestro della teoria della relatività, scrive che noi, poco relativisti, vediamo i buoni buonissimi e i cattivi cattivissimi, e naturalmente noi siamo i buoni. Ma sullo stesso giornale Ernesto Galli della Loggia ha ricordato con quanta autoflagellazione l'Occidente si interroghi sulle colpe commesse contro i musulmani, che invece tendono a leggere la loro storia come un'epopea senza macchia. Visto il nemico, il nostro problema è proprio l'eccesso di relativismo. Che gli jihadisti siano mossi dalle stesse pulsioni degli antifranchisti, sempre che sia vero, non vuol dire nulla. Anche Hitler e Mao si consideravano salvatori dell'umanità, ma non cambiamo giudizio su di loro. Non vuol dire nulla perché l'Occidente non è la Spagna di Franco, è il luogo della democrazia. Nulla perché gli antifranchisti non si facevano esplodere fra i civili e nulla per altri 100 motivi. George Orwell, che combatté in Spagna contro Franco, aveva un'idea. Gli intellettuali sono quelli che sbraitano più forte contro il fascismo e poi al dunque disertano. Il Messaggero, Raggi, il flop Movimento 5 Stelle non è colpa mia. Abbiamo sentito anche nella prima parte di 24 Mattino che è stato da molti commentatori è stata avanzata questa ipotesi, cioè che sul mancato passaggio al ballottaggio del Movimento 5 Stelle nei capoluoghi di provincia ci sia anche abbia pesato anche sugli elettori, quindi abbia pesato anche i primi mesi, quasi ormai un anno, di governo di Virginia Raggi a Roma come sindaco e di Chiara Appendino a Torino. Dalla prima pagina del Messaggero anche a due altre notizie che sugli altri giornali magari non finiscono in prima pagina. Una è il caso May, perché in Inghilterra si è votato, nel Regno Unito si è votato giovedì scorso, elezioni anticipate, e sapete c'è un Parlamento che in inglese viene definito hung parliament, letteralmente un Parlamento appeso. Theresa May non ha ottenuto la maggioranza più forte che sperava di ottenere, sta cercando alleanze e è ancora, possiamo dire così, lontana dal formare un governo, tanto che la regina che fa questa famosa Queen's Speech ogni volta che viene formato un nuovo governo avrebbe dovuto farla e ha rimandato questa apparizione in Parlamento. È interessante, lo trovate per chi avesse curiosità sulla BBC o su tantissimi altri siti, il vero e proprio mea culpa di Theresa May che ai parlamentari ha detto letteralmente I got us into this mess and I will get us out. Letteralmente sono io che ho messo tutti noi in questo mess, in questo pasticcio, e sono io che vi porterò fuori da questo, che porrò fine a questo pasticcio. Vedremo se è vero, però intanto mi sembrano parole chiare, una missione di colpa, di responsabilità, che secondo me è sempre un buon punto dal quale partire. E la prima pagina dell'Avvenire, il grande spariglio, e qui il tema è un po' quello che ci diceva Maurizio Bianconi, parlamentare di Direzione Italia, nella prima parte di 24 Mattino, cioè che è semplicistico e secondo lui non vero dire che si è tornati a un bipolarismo, in realtà appunto il grande spariglio, quindi alleanze molto liquide, abbiamo detto. Interessante la fotonotizia dell'Avvenire che è dedicata all'Africa, poi vedremo che ci sono molti articoli sull'Africa oggi. Lo spunto è il G7 dell'ambiente a Bologna, che tutti hanno considerato un po' un flop per il fatto che l'America, con le dichiarazioni di Trump che ha detto che gli Stati Uniti non aderiranno all'accordo di Parigi sul clima, e questo avrà sicuramente delle conseguenze, e quindi c'è la fotografia di un deserto africano dove la siccità colpisce duramente, l'abbiamo visto anche altre volte sulle pagine dell'Avvenire. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa e ci ritroviamo tra pochi minuti. 24 Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eccoci per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, sms o whatsapp al 349-238-6666, in particolare all'ascoltatore che chiede se la legge sui vaccini è già passata. In realtà si trattava di un decreto legge, quindi non c'è bisogno di un passaggio in Parlamento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono già le disposizioni, quindi in realtà con tutte le difficoltà del caso, perché sarà difficile rendere questa operativa, questa vaccinazione obbligatoria in tutte le scuole. Sapete che il decreto prevede che se non i bambini non danno prova di aver fatto questi 12 vaccini, secondo il decreto non possono essere ammessi a scuola. Quindi questo per quest'altro ascoltatore. Un altro ascoltatore, e qui davvero io sono sempre stupita. Ho detto, tornando dopo il GR, che il Movimento 5 Stelle ha intercettato un malessere e che personalmente mi auguro che dia delle risposte a chi ha votato il Movimento 5 Stelle o simpatizza per il Movimento 5 Stelle, perché sente questo malessere molto diffuso nel paese. E questo ascoltatore mi dice: si vergogni Crivelli, lei sa solo attaccare noi 5 Stelle. Ma attaccare come? Attaccare dove? Io non mi faccio veramente delle domande su dove sbaglio a dire quello che penso, se c'è qualcuno che così tanto mi fraintende. Piacerebbe avere qui questo ascoltatore, che peraltro non si firma, per chiedergli ma perché? Perché le suona come una critica, quando in realtà cerco semplicemente davvero di capire questo importantissimo fenomeno politico che tutti osservano anche dall'estero, che sono il Movimento 5 Stelle. Detto questo, era la prima pagina della Verità. Gli italiani bocciano l'inciucio, questa l'interpretazione del voto secondo la Verità, e anche Mario Giordano si occupa dell'articolo di Carlo Rovelli, di cui abbiamo parlato prima, perché Mattia Feltri ha dedicato il suo buongiorno sulla stampa, però l'articolo di Mario Giordano è più lungo e anche molto più critico, se vogliamo. Secondo il Corriere, l'ISIS e i partigiani pari sono. Il Giornale, riecco il centrodestra, quindi punta, e devo dire, qui ho notato, l'avevo messo da parte per dopo, ma ve lo dico subito, il Giornale è il giornale che in percentuale, ma anche in assoluto, dedica più pagine ai risultati delle amministrative, sono esattamente 18, più di qualsiasi altro quotidiano oggi. La copertina quindi è questa, e poi c'è un articolo, scusate se sorrido, ma io ho una passione per la divulgazione scientifica, credo che sia molto difficile farla. Abbiamo appena parlato di Carlo Rovelli, che nel suo libro 7 semplici lezioni di fisica ha fatto, secondo me, un eccellente lavoro di divulgazione scientifica, di fisica in particolare. Ecco, allora, leggere l'articolo di Antonino Zichichi che peraltro è uno scienziato, che dice quelle bugie sul clima basate su formule errate. Antonino Zichichi fa parte di quella minoranza di scienziati che pensa che non ci sia un problema di riscaldamento globale. Il secolo XIX, ve lo cito perché sappiamo che Genova è uno dei quattro capoluoghi in cui si è votato, quindi uno dei voti più che è stato osservato più da vicino. Tra l'altro Genova è anche la città natale e la città dove vive Beppe Grillo, fondatore, cofondatore del Movimento 5 Stelle. Il titolo del secolo XIX, Genova caccia gli astenuti, per capire appunto una delle componenti di questo voto, non solo a Genova ma in tutti i 1.004 comuni in cui si è votato, è stato anche appunto l'astensionismo. Il manifesto Partiti Male, il solito insomma, l'ennesimo brillante gioco di parole del manifesto, non fanno eccezioni. Anche alle elezioni comunali sale l'astensionismo, ha votato solo il 60% degli aventi diritto, che erano circa 9 milioni di italiani. La sbronza delle liste civiche camuffa l'affanno del PD, che rischia grosso nei ballottaggi. La sinistra c'è e si vede, i 5 Stelle pagano il prezzo delle divisioni, il centrodestra rialza la testa. Il Libero, perché il bullo è caduto. I motivi del disastro dei 5 Stelle, anche in questo caso, un po' come nel titolo della verità, è molto chiara l'opinione appunto di Libero. Ricordiamolo sempre, lo hanno fatto molti ascoltatori, ma lo ricordo anch'io qui ancora una volta, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che si è presentata praticamente ovunque da sola, mentre tutti gli altri facevano parte o di schieramenti etichettati come centrodestra, centrosinistra o di liste civiche o di raggruppamenti di liste civiche. Il Fatto Quotidiano: Renzi esulta ma perde anche lui. Il PD, se si contano i voti, ha perso il 6% in 12 mesi, tiene solo B punto. Sapete che il Fatto ha questo vezzo di non chiamare mai Berlusconi col suo intero cognome, ma di scrivere B punto. Il Foglio, che è un giornale di opinione proprio, ha in prima pagina due opinioni, una del suo fondatore Giuliano Ferrara, che parla più delle elezioni, abbiamo detto quelle che ci sono state nel Regno Unito giovedì scorso, e il primo turno delle politiche per rinnovare il Parlamento francese domenica, mentre l'attuale direttore del Foglio, Claudio Cerasa, si occupa delle nostre elezioni, il grande bluff del grillismo vincente, breve storia di una fake news. Ma non sono per niente fake news quelle che adesso ci racconta Mauro Meazza dal Sol. Ah, non c'è ancora Mauro, fake Mauro. Quindi, comunque, appena ci sarà, ci racconterà quelle che non sono fake news del Sole 24 Ore. Il Giorno ha la copertina dedicata a quella notizia che ho definito pessima, veramente deprimente, sulle condizioni di quella paziente in un ospedale di Napoli. E è una fotografia che non lascia dubbi, tra l'altro si vede che è anche una donna anziana, quindi ancora peggio secondo me, lasciare una persona anziana che quindi ha una doppia debolezza, quella appunto legata all'età e quella legata alla malattia, se no non sarebbe in ospedale. Il titolo del Giorno: se questo è un ospedale, formiche nel letto, paziente tra gli insetti al San Paolo di Napoli, il direttore si scusa, la Lorenzin, ministro della Salute, manda gli ispettori. Ma eccoci con Mauro. Oh, buongiorno, buongiorno Giulia. In realtà volevo fare una domanda. Cioè, volevo chiederti io se ci parlavi un momento dello speciale dedicato a Pitti Uomo che oggi c'è con il Sole 24 Ore, perché collabora anche, scrive anche su questo speciale tal Giulia Crivelli, che immagino sia persona a te nota in qualche modo. Allora, guarda, faccio proprio un'eccezione perché il tema mi sta molto a cuore. 34 pagine dedicate a questa grande fiera della moda maschile che si apre a Firenze. È una piccola parte di quel grande sistema moda che abbiamo in Italia, seconda voce del nostro PIL. E noi abbiamo cercato di fare un lavoro alla Sole 24 Ore, parlando anche di moda per l'appunto, ma soprattutto di sostanza economica. Posso fermarmi qui? Molto bene, no, ti ringrazio. Allora ne approfitto per ricordarti, penso che tu l'abbia già segnato sul tuo diario, che domani invece con il Sole 24 Ore 80 pagine, un Istanbul dedicato all'università. Già citavi e hai fatto molto bene il lavoro di Maria Luisa Colledani sull'Erasmus, compie 30 anni, è un compleanno importante perché, come spiega anche Maria Luisa Colledani, ha contribuito a formare proprio una generazione di europei questo programma. Adesso si chiama Erasmus più o plus, come preferisci, tutto quanto spiegato nelle pagine di commenti inchieste da leggere come sempre sul Sole 24 Ore di oggi. Oh, ti segnalo così, pescando fior da fiore, allora l'intervista a Michel Barnier, che è il negoziatore europeo per la Brexit. Perché Beda Romano lo ha intervistato, è una chiacchierata che compare su pochi giornali europei, una chiacchierata di livello internazionale per l'Italia, il Sole 24 Ore. Allora, Barnier sostanzialmente dice lui agli inglesi che Brexit means Brexit, cioè che adesso è il momento di fare i passi necessari, quindi dopo aver presentato la richiesta di uscita, adesso per favore diteci come volete uscire, darà anche tutta una serie di tempi, quindi vedremo adesso come ci rilanceranno la palla, per così dire, da Londra. Questo lo trovi naturalmente nelle prime pagine sulle 24 ore. Poi ti consiglio assolutamente da meditazione, non tanto il contributo di Moria Longo, che spiega come ci sia una bolla per l'high tech o una quasi bolla per i titoli dell'high tech. Cioè interessantissimo quell'articolo, io anche per chi non è tecnico di finanza, l'ho letto con religiosità stamattina. Oh, molto bene, beh, religiosamente in realtà dovresti leggere Norme e Tributi. Ah, mentre avidamente potresti leggere le questioni che parlano di finanza, anche per una connessione più diretta con il denaro. A questo proposito, guarda, avidamente puoi leggere dalla prima pagina di Finanza e Mercati, perché accostiamo, l'impaginazione a volte propone di queste vicende, da una parte la storia delle banche venete, e siamo in trattativa con, come sai, con la commissione per vedere se gli affamo o non gli affamo, speriamo che gli affamo, e invece l'andamento, il buon andamento dell'asta dei titoli di Stato, che hanno chiuso addirittura con rendimenti in negativo. Questo so che può sembrare paradossale, ma invece è un aspetto positivo, perché sta a dire che c'è fiducia in qualche modo nella tenuta dei nostri conti, e quindi questo ci fa piacere. Se vuoi invece proprio leggere religiosamente, ma ripeto, pesco fior da fiore, perché davvero molto ci sarebbe da dire, allora ti consiglio religiosamente il piano di monitoraggio sull'apertura delle partite IVA nuove, di cui riferiamo in Norme e Tributi, quindi che si faranno controlli maggiori. Sai che, ohimè, purtroppo l'IVA è uno dei punti dove si registra la maggiore evasione, e allora c'è un piano di controllo più approfondito per le nuove partite IVA. Importante una decisione di commissione tributaria sulla voluntary disclosure, che non voglio tediare gli ascoltatori, naturalmente tutti sappiamo cos'è questa voluntary, tra l'altro la nuova versione, la seconda versione è aperta fino al 31 luglio, aderite numerosi, la voluntary disclosure, perché una commissione tributaria ha deciso che va bene, aderite, ma vi ridaremo l'euro ritenuta. È un'imposta che è stata prevista appunto per il mantenimento di conti all'estero in regime di riservatezza. Ecco, adesso si è un contribuente che ha aderito, ha chiesto il rimborso. Guarda, io ti assicuro, tu non avrai forse colto come me per il resto l'importanza di questa decisione, ma ti assicuro che diversi amici professionisti del fisco hanno colto e leggeranno religiosamente su Norme e Tributi. Poi Giulia, che ti posso dire, è martedì e quindi condominio, è certamente il condominio con l'eco bonus per cedibile per il condomino incapiente. Sai che l'incapienza è una cosa sempre che procura dei fastidi, però adesso con la manovrina che è ancora in corso di conversione, c'è un allargamento della possibilità di cedere il bonus per i miglioramenti energetici. Altro non ti vuol dire a questo punto. Ci sentiamo domani. Ricordati l'università. La guida sull'università, mi raccomando. Non chiedermela al bar anche tu come fai il debosciatellum. Cara Giulia, cari ascoltatori, traffico! Mattino. Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, ben ritrovati per questa ultima parte della rassegna stampa. Devo due risposte agli ascoltatori, all'ascoltatore che mi chiede chi è l'autore del libro 7 brevi lezioni di fisica pubblicato da Delphi, è Carlo Rovelli, e invece all'ascoltatore che mi chiede dove è l'articolo di Antonino Zichichi, è sulla prima pagina del giornale e poi continua all'interno del giornale. E un'ultimissima cosa, ha ragione l'ascoltatore che dice un decreto legge deve essere convertito entro 60 giorni, se a quel punto il Parlamento non lo converte perde validità. In questi 60 giorni però il decreto legge è appunto, tanto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è efficace, anche se sappiamo che, siccome è strettamente legato all'inizio delle scuole, vedremo appunto cosa succede in questi mesi per preparare le vaccinazioni che sappiamo sono obbligatorie per poter iscrivere i bambini a scuola. Dicevamo delle pagine, andiamo alle pagine interne, e avevo citato prima questa analisi che c'è sulla stampa dell'astensionismo. Perché non votiamo più? Lo trovate alle pagine 10 e 11 con un'interessante intervista a Gianfranco Pasquino, un politologo, che dice: l'astensionismo è diventato un modo di fare politica. C'è anche però Dominique Moisy, che è un politologo francese, che invece dice: non generalizziamo, dai giovani inglesi segnali di speranza, anche se in Francia anche lì c'è stato un astensionismo record. Pensate, addirittura da noi hanno votato il 60% degli aventi diritto a quest'ultima tornata elettorale domenica. In Francia, per il primo turno delle politiche per rinnovare il Parlamento, ha votato circa il 50% degli aventi diritto. Vabbè, vi segnalo due interviste, poi basta politica. Sul Corriere della Sera, uno a Leo Luca Orlando, che è stato eletto sindaco di Palermo per la quinta volta con poco più del 40% dei voti, perché la Sicilia ha una legge speciale che permette appunto di passare, di evitare il ballottaggio anche se si raggiunge il 40%. Orlando e i Dem qui hanno fatto due passi indietro, partiti senza anima, vince quello che lui definisce il civismo, in questa intervista concessa a Felice Cavallaro. Mentre Aldo Cazzullo, che ormai si esercita sulle politiche di tutti i paesi, Regno Unito, Francia e per fortuna anche Italia, ha intervistato Giuliano Amato, che è stato premier, ha ricoperto moltissimi incarichi e ora è giudice costituzionale. Il virgolettato scelto per intitolare questa lunga intervista, che trovate a pagina 13: il populismo non è sconfitto, la terza via per la sinistra è stato un fallimento storico. Sapete che per terza via si indicava soprattutto quella sinistra moderata incarnata alcuni anni fa da Tony Blair, che infatti è fotografato con Giuliano Amato durante una pausa di un summit dell'Unione Europea di Nizza, pensate, nel dicembre 2000. Molto interessante l'inchiesta di Margherita De Bac sul Corriere a pagina 27. Margherita De Bac è una giornalista che si occupa soprattutto di temi medici, di temi legati alla salute. I giovani non donano più sangue. La fascia più rappresentata è quella tra i 45 e i 60 anni. Non c'è ricambio generazionale dei volontari. Siccome domani è la giornata mondiale dei donatori di sangue, ecco che cosa si può fare per stimolare i più giovani a donare sangue. Sapete che le donazioni di sangue sono essenziali per il fabbisogno degli ospedali in tutti i casi in cui sono necessarie delle trasfusioni, o perché le persone hanno perso molto sangue, o perché sono sottoposte a interventi molto lunghi dove bisogna preparare appunto una, tra virgolette, riserva di sangue. Dal Corriere della Sera, un articolo che ho trovato bellissimo di Gaia Piccardi, che è una giornalista che si occupa di sport e ha anche il dono proprio della narrazione. Più che, secondo me, gli articoli di cronaca, i suoi articoli più belli sono quelli dove racconta un personaggio. Qui racconta la tennista francese Marion Bartoli, che oggi ha 32 anni, nel 2013 vinse a Wimbledon e poi ebbe molti problemi anche fisici, che poi spesso si legano a disagi psicologici. Quindi la tennista, ci racconta Gaia Piccardi, era arrivata a pesare 40 kg, sostiene che non fosse anoressia ma che avesse preso un virus tropicale. In ogni caso, adesso ha ripreso quei chili, ha ripreso a giocare a tennis e sicuramente c'è il tema del come affrontare un successo quando si è, e questo vale per tantissimi sportivi, quando si è molto giovani, e non farsene travolgere. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo un dossier sull'Africa di Tonia Mastrobuoni. Investimenti e alleanze, ecco il piano del G20. Sappiamo quanto lo sviluppo dell'Africa possa essere per esempio legato a questo fenomeno delle migrazioni, che così tanto ci colpisce, ci influenza soprattutto qui in Europa. Quindi il tema dello sviluppo, Tonia Mastrobuoni parte da alcuni dati: il continente africano avrà una popolazione, pensate, di 2,5 miliardi nel 2050. Per prevenire l'ondata migratoria o renderla un'opportunità servono accordi di sviluppo. Interessantissimo anche l'approfondimento di Stefano Filippi sul Giornale, sempre sull'Africa, perché questa è una tesi soprattutto espressa nel libro di una economista africana Dambisa Moyo, che ha scritto un libro che si intitola La carità che uccide. È il tema di gli aiuti sono veramente efficaci, secondo Stefano Filippi, che riprende le tesi di questa economista autorevolissima, non sempre sono efficaci. In 10 anni l'Africa ha ricevuto 515 miliardi, ma i paesi che hanno ottenuto più soldi sono quelli da cui la gente continua a scappare. Sullo sfondo naturalmente c'è soprattutto il problema della corruzione. Da Repubblica, questa cronaca in un certo senso anche divertente, ultimissima segnalazione, a pagina 20 trovate le storie parallele di Emilio Fede, 86 anni, condannato ieri a 3 anni, non andrà in prigione ovviamente per motivi di età, anche perché poi è una condanna di primo grado, e invece Fabrizio Corona, che per una mega evasione fiscale se l'è cavata con 1 anno, una condanna che significa che anche lui non sconterà in carcere. Ultimissima segnalazione per oggi, un grazie a Lorenzo Nespoli in redazione, a Paolo Corleone in regia, una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli, a domani.